la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Ben ritrovati alla prima volta, la puntata di oggi è praticamente dedicata al mondo dei fumetti, un posto magico nel quale un bambino, che poi vedremo sarà il protagonista della puntata di oggi, un bambino di 8 anni, vorrebbe nei suoi sogni restare, lavorare. Il suo desiderio più grande è dunque quello di disegnare Topolino, un sogno che questo bambino di nome Tito è quasi certo però di non poter realizzare. La storia che vi raccontiamo oggi dunque è quella di Tito Faraci, che diventerà un giornalista musicale e metterà per tantissimo tempo nel cassetto questo sogno di cui vi parlavo. Questo almeno fino a quasi 30 anni, quando accadrà una magia, perché i sogni spesso tornano a trovarci. Forse è la prima volta che ho scritto una storia di Topolino, che poi la scrittura di una storia di fumetti è fatta di due fasi. Una è quella della stesura del soggetto, che è una cosa anche molto veloce, si scrive una paginetta o un poco più per raccontare qual è la trama, e poi c'è una parte più lenta in cui si sceneggia vignetta per vignetta, pagina per pagina. Però mi ricordo ancora il fine settimana in cui mi avevano proposto poco prima: dai, prova a suggerire una storia per Topolino, a fare un soggetto. Allora mi ricordo che è stato lì a meditarci su, ero andato al lago e sono stato a pensare a questa storia, poi l'ho messo giù proprio, è una cosa brevissima, un spunto molto breve, e mi ricordo benissimo come l'ho scritto, e anche una bellissima sorpresa che la storia fosse stata accettata subito, ma anche il fatto che a quel punto mi ero tuffato per imparare a nuotare e quindi mi sono fatto passare un sacco di sceneggiature di quelli che in futuro poi sarebbero stati i miei colleghi, o mi sono messo a guardare come giravano questi meccanismi dell'orologio. E ripensandoci, dopo tanti anni è difficilissimo imparare a sceneggiare. Io stesso sto aiutando un gruppo di autori giovani bravissimi, mi occupo di scouting per Topolino, e so quanto è difficile entrare nei meccanismi della sceneggiatura, e il fatto che io sia riuscito subito a sceneggiare in un qualche maniera funzionante quella storia, che poi è andata con un bravissimo disegnatore, è stato un miracolo delle cui dimensioni mi sono reso conto soltanto dopo tanti anni. E di che cosa parlava questa storia? Era una storia con Pluto Topolino, c'erano degli alieni che volevano vedere quanto erano potenti i terrestri, quanto potevano essere degli avversari temibili. Allora individuavano le radiazioni di un campione terrestre, uno veramente valido che arrivava in una certa direzione, e la direzione era quella di Topolino, ma Topolino era in giro con Pluto, loro non capivano bene da quale dei due arrivasse questa radiazione, allora rapivano entrambi e dicevano: uno di questi due è un campione terrestre, ma quale dei due? Allora sottoponevano a prove Topolino e Pluto, e quindi in teoria è Topolino che era super intelligente, bravissimo, mentre Pluto è, tra virgolette, solo un cane. Solo che era Pluto a dare delle enormi soddisfazioni agli alieni, e alla fine si convincevano che questi terrestri erano veramente imbattibili, e quindi li liberavano con grandissimo rispetto il campione terrestre, che per loro era Pluto, e anche il suo animale domestico, diciamo così, che era Topolino. Bellissima, bellissima storia. Ma ripetendoci, non era male, la storia che scrive. Non era male, era bravino. Ma quanti anni aveva quando l'ha scritta? No, a me sono tornato al fumetto, ho visto abbastanza tardivamente. Era poi tutto. Ma avevo avuto 29 anni, e non è che. Beh, comunque era. Cioè, stavo facendo da molti anni giornalista musicale, cosa che ho cominciato a fare attorno ai 22 anni, 21 sì. anni, venendo al mondo delle fanzine e altre cose nel campo dell'editoria. Sembrava che la mia strada, anche non spiacevole, sia chiaro, fosse già stata decisa. Però così, forse magari uno sceneggiatore di fumetti va bene se ha avuto anche tante altre esperienze, se ha vissuto una vita interessante anche prima di cominciare a raccontare qualcosa. E da quel giorno Tito Faraci, classe 65, non ha mai smesso, mettendo in gioco fantasia, grandi capacità di scrittura. Molte storie sono rimaste nella memoria dei bambini. Faraci, per gli appassionati di Topolino, è colui che ha promosso, tra gli altri, Manetta da ispettore a commissario, ma questo soltanto per una storia. Un percorso, quello di Faraci, di vita e professionale, che è confluito in un libro edito da poco dal titolo Mickey, Uomini e Topo. Intanto mi è arrivata una proposta molto interessante dalla casa editrice ADD, dall'editore Fabio Geda, che poi è anche soprattutto uno scrittore, un amico, che sta curando assieme a Francesca Mancini questa collana chiamata Incendi, in cui autori, scrittori, poi ospiti di altre case editrici, perché io nel campo dell'editoria, per libreria, pubblico per Feltrinelli soprattutto, ospiti di altre case editrici, raccontano una loro passione, la passione della loro vita che li ha incendiati, appunto. La raccontano in maniera da comunicare questa passione al lettore e in qualche maniera contagiarlo. Allora è cominciato tutto da qui, nel senso, perché non ci racconti la tua passione? Io ne ho tante, sono molto affezionato alle mie ossessioni, però ci ho pensato su davvero pochissimo, è la mia passione gigantesca che ha, quindi, mutato la mia vita professionale, condizionato anche la mia vita personale, è stata proprio questa per il fumetto disneyano e in particolare per il personaggio di Topolino, per cui ho una bellissima ossessione. E così ho scritto questo libro proprio davvero come se fossi seduto al bar e mi trovassi di fianco una persona che mi dicesse: dai, raccontami perché ti piace così tanto. E l'ho fatto così, ma è un libro scritto senza usare neanche troppo Google, Wikipedia, o figuriamoci, o alzarmi anche solo a cercare un libro in libreria. L'ho fatto basandomi sui miei ricordi, sulla mia memoria, sui titoli che mi venivano in testa, o alla fine ho controllato giusto qualche data, ed avevo un libro scritto così, di getto. Ecco, ed è un libro che asseconda un po' quello, l'ha detto anche lei adesso, quello che è stata la sua, forse la sua prima passione più che ossessione, perché poi appunto di passioni stiamo parlando, quella per i fumetti. Quindi in qualche modo questa puntata si rivolge soprattutto a tutto quel gruppo di ascoltatori che con lei condividono questa passione. Come nasce e perché nasce in lei la passione per i fumetti? Lei dice disneyani, ma so che lei ha poi spaziato molto nel corso degli anni. Ho avuto la fortuna di scrivere tantissimi fumetti, ma questo nasce da averne letti tantissimi. Quando ero bambino io tutti leggevano i fumetti. C'era un approccio con i fumetti che è molto diverso da quello di oggi. Migliore ma anche peggiore, intendiamoci. Era migliore perché davvero appunto lo leggevano tutti, perché se uno fosse entrato in una qualunque classe scolastica, elementare, delle medie, avesse detto chi legge fumetti, sarebbe stato come chiedere chi guarda la televisione, cioè non sarebbe stata una domanda quasi sciocca, tutti leggevano fumetti. D'altra parte però erano davvero pochi i bambini e i ragazzi che volevano capirne un pochino di più, no, addirittura tutti erano più o meno convinti che, siccome l'unica cosa scritta in alto sopra un numero di Topolino era Walt Disney, forse Walt Disney a disegnare e scrivere tutti i fumetti, ma poi che qualcuno li scrivesse non si sapeva neanche, cioè i fumetti erano una cosa per chi sapeva disegnare, quindi ci immaginavamo i fumettisti comunque come gente che disegnava e basta, cioè che esistesse l'altra metà del cielo, quella di chi sceneggia i fumetti, figuriamoci. È una cosa che però qualche bambino avvertiva. Io leggevo per esempio molti fumetti della Marvel e vedevo questi nomi di chi scriveva, di Stan Lee soprattutto, e allora io insomma mi ero fatto l'idea che ci fosse dietro qualcuno che scriveva, qualcuno che disegnava, una redazione, qualcuno. Questa cosa mi affascinava molto. E per Topolino non c'erano i nomi degli autori, non c'erano e non ci sono stati per moltissimi anni. Moltissimi anni in cui le cose sono molto cambiate, si è diffusa come dire, una maggiore percezione di quello che era il fumetto, nello stesso tempo il fumetto è diventato qualcosa di meno popolare. Facciamo un salto a quello che è oggi, insomma, io sono un autore che ha attraversato come autore una transizione dal fumetto molto popolare a quello di oggi, che è un po' meno popolare, fa dei numeri grossi in Italia ma un po' meno grossi, però gli appassionati di fumetti sanno del fumetto, seguono gli autori, sanno come è fatto. I nomi degli autori su Topolino ci sono, ci sono persone che in rete discutono fra di loro sulle storie che piacciono di più, su di meno, sui filoni che interessano di più e di meno. Io appartengo a quest'altra epoca in cui, diciamo, il fumetto è un po' una cosa come il cinema, il teatro, altre forme d'arte che magari hanno avuto un restringimento del campo delle persone che le seguono, ma le persone che seguono hanno una maggiore attenzione, una maggiore attenzione per il fumetto. Ecco, io mi identifico insomma un po' anche in questo passaggio, io stesso come lettore in qualche maniera l'ho anticipato, questa mia passione per il fumetto, questa mia curiosità è rimasta, ci sono stati anni in cui un po' me ne sono distaccato, ho fatto il giornalista, ho fatto altre cose, ma poi insomma ci dovevo per forza capitare. A un certo punto sono capitato nell'orbita di Topolino, ho cominciato a scrivere storie per Topolino e da lì è partito nella metà degli anni 90, sembrava che dovessi fare giornalista musicale tutta la vita, e Topolino mi ha acchiappato e ho cominciato questa bellissima carriera, questa bellissima avventura. Ecco, ma per tornare agli esordi, diciamo al sogno, all'esordio del sogno, quando lei era piccolino e leggeva, eccetera, man mano si formava questa curiosità, questa voglia di entrare in questo mondo, e i suoi genitori cosa dicevano? Ma lo avevano anche secondato, ma io volevo fare fumettista, ma sembrava un po' una cosa tipo fare l'astronauta. Ma poi, cioè, anzi, forse fare l'astronauta sarebbe stato più semplice, perché siccome comunque, malgrado questo, rimaneva sotto anche in me questa convinzione che avevano tutti, che il fumetto passasse necessariamente attraverso il disegno, il saper disegnare, allora io, essendo sempre stato molto negato per il disegno, anche oggi che so governarlo, cioè nel senso le istruzioni che do in una sceneggiatura, le indicazioni sono sempre molto precise sulle inquadrature, in qualche maniera conosco quali sono. Come dire, in teoria lo so fare, ma in pratica non riuscivo mai a farlo, sono proprio negato. Allora a un certo punto mi ero totalmente convinto, ma da bambino, che fosse che avrei fatto nella vita sicuramente qualcos'altro, perché proprio sono sempre stato molto negato per questa cosa. Quindi proprio era stato un sogno accantonato, perché poi negli anni crescendo mi sono anche reso conto che esisteva, appunto, poi figuriamoci in Italia, dove i sceneggiatori di fumetti sono stati creatori spesso dei personaggi più importanti del mondo del fumetto. Tex è stato creato dal suo sceneggiatore, Diabolik dalle sue sceneggiatrici, Dylan Dog dal suo sceneggiatore, insomma è così. Però era un sogno che avevo accantonato, cioè che era stato lasciato andare, e poi per fortuna invece è tornato. Ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. A me mi piace i piedi, ai piedi piace te. Prima dell'invenzione dei piedi gli umani non amavano camminare perché faceva malissimo, avendo le ossa esposte il sangue colava fuori tutto il tempo. Prima dell'invenzione dei piedi per gli Homo sapiens non era bello fare il bagno nell'oceano perché la loro gamba sprovvista di piede rilasciava continuamente sangue in quantità elevatissime, attirando decine e decine di squali. Questa è una delle ragioni per cui gli europei non sono andati in America prima del 1492. Andarci a nuoto, anche in nave, sarebbe stato pericoloso. Anche solo una persona caduta in acqua avrebbe attirato subito uno stormo di pesce cani. Questo che avete sentito è Sio, un fumettista che fa cartoni surreali, ha un successo incredibile su YouTube. Perché in una puntata dedicata a Tito Faraci parliamo di Sio, lo scoprirete, ma forse lo sapete già, nel corso di questa intervista allo sceneggiatore di fumetti, appunto, Tito Faraci. Fumetto ha una grandissima capacità emozionale perché mette un rapporto di intimità che c'è nella lettura da sempre, quella lettura in prosa, per cui un rapporto molto intimo con il lettore, ma anche un'immediatezza che non so, è di forme di arte visive, tipo il cinema, la pittura, il teatro, si mette assieme tantissime cose emozionali, manca solo una colonna sonora, fumetto, però per il resto c'è davvero tutto, davvero da tenerlo in mano, a guardare, a seguire la storia con lo sguardo, alla parola, trasmette emozioni in tante maniere che si fondono fra di loro. Senta, le volevo chiedere questa cosa, il linguaggio scritto nei fumetti è molto cambiato rispetto agli anni 70-80, cioè si è, in qualche modo avete fatto una scelta, non dico di categoria, però probabilmente lei lo ha fatto cercando di svecchiare un po' anche lo slang, anche un certo modo di parlare, cioè c'è stato dibattito interno su questo tema? Ma Beh, c'è stata una coscienza che esiste, che si poteva anche fare della teorizzazione del fumetto, che si potevano anche prendere in mano in mezzo, che rompere l'orologio, no, comunque almeno qui da guardare come sono fatti i meccanismi. Ci sono stati negli ultimi 20 anni molti teorizzatori sul fumetto, molte persone che hanno scritto, che hanno dibattuto su come è costruito il fumetto, qual è il rapporto con il lettore, quali sono gli strumenti, quali codici che appartenevano al fumetto molti decenni fa siano ancora validi, quali invece vadano cambiati o rimossi, perfino su dettagli su come l'uso, la necessità o meno delle didascalie è stata fonte di grandi discussioni e dibattito interno. Diciamo che oggi il fumettista ha una coscienza di sé e del proprio mestiere molto grossa. Il linguaggio si evolve, diventa più raffinato, abbiamo un pubblico un po' più ristretto, è vero, però un pubblico molto attento, un pubblico che è molto disposto a seguire la narrazione anche su scale impervie. Il lettore, come dire, il lettore che è distratto, non si distrae, appunto, cioè se gli proponi di seguirti su una storia che richiede un certo tipo di attenzione, non è tanto disposto a farlo, ma un lettore di fumetti molto appassionato è pronto anche ad affrontare una strada un po' in salita se lo porta in alto. Quindi noi così possiamo permetterci di usare un linguaggio che diventa da una parte sempre più ricco, anche complesso, però che ci permette di raccontare storie altrettanto complesse. Senta, lei prima ha citato appunto le entusiasmanti avventure di Max Mildenstone e del suo cane alto 300 metri. Com'è stato lavorare con Sio? Cioè, perché ha scelto di fare questa collaborazione che è particolare? Ci siamo scelti una vicenda. Sì, è un autore che ha un colossale successo in questo momento e sembra riflettere un linguaggio, un tipo di umorismo che appartiene ai giovani o anche molto giovani. In realtà ho scoperto casualmente, me ne hanno parlato dei colleghi, ma anche mio figlio, che questo autore aveva molti punti di contatto con cose che scrivevo, che sceneggiavo io negli anni 90, in particolare su PK, per Grignick, New Adventure, una rivista di culto collegata a Topolino, ma fuori da Topolino negli anni 90, ma anche e soprattutto su una piccola cosa che io facevo tutto da solo e l'ho fatta per, mi sembra, un paio d'anni, insomma, mi ricordo quanti numeri sono usciti, che si chiamava Ridi Topolino, che era una specie di parodia di Topolino in cui scrivevo sceneggiature, rubriche, facevo un po' di tutto, prendendo un po' in giro Topolino e con un umorismo che all'epoca era considerato, diciamo, surreale. A un certo punto scopro che Sio sta pubblicando fumetti, cose del genere, che in qualche maniera mi ricordano questa mia esperienza. Poi leggo un'intervista in cui dice che per lui la lettura più importante che abbia avuto nella sua vita è stata di Ridi Topolino, mi cita. Allora io mi metto in contatto con lui attraverso Twitter, scopro che mi segue, cominciamo a chiacchierare, gli propongo di scrivere delle storie per Topolino. E si è messo a scrivere delle storie di Topolino, diventiamo amici, collaboriamo, facciamo delle cose per Topolino e malgrado la distanza di età c'è un'affinità tale, ci divertiamo così tanto che a un certo punto abbiamo detto vabbè dai, facciamo un libro assieme. Incredibilmente la Feltrinelli, che non ha mai pubblicato un libro di fumetti originario, ha deciso di buttarsi in questa avventura e a questo punto abbiamo dovuto farlo ormai. Facciamo incontri a cui vengono centinaia di persone in librerie che costringiamo a tenere aperte fino dopo l'ora di chiusura. Cioè, è una bella avventura anche per me, sono molto soddisfatto, siamo molto soddisfatti. E poi anche per lei è un po' mettersi nuovamente in gioco su nuovi linguaggi, perché Sio lavora molto con YouTube, cioè insomma è un altro tipo di linguaggio, per cui deve essere divertente anche per lei. Sì, ma è stata una cosa molto graduale. Come dire, ci siamo scambiati anche un po' i pubblici, lui in questa maniera arriva magari anche a un mio pubblico che è un po' più, magari anche minore quantitativamente, perché lui fa tipo 1.300.000 persone che lo seguono sul canale YouTube, una cosa spaventosa. Io magari ho un pubblico mio che sono un po' più adulto anagraficamente, che però sta scoprendo sì, io tanti amici che non sapevano chi fosse, adesso mi dicono ma è geniale. Sì, è vero, è geniale. E io mi ritrovo un pubblico di ragazzini che mi ricorda i bei tempi degli anni 90. mi sono un po' riacchiappato quel pubblico lì e ho scoperto che è ancora disposto a ridere e a seguire, che il mio umorismo non è poi così invecchiato, anzi, a quanto pare, a forza giri e rigiri, se uno rimane fermo il mondo lo raggiunge nuovamente. Senta, io le volevo intanto fare complimenti perché veramente lei ha un grande talento anche nel mettersi appunto in discussione, nell'aprire nuove possibilità a questo mondo, eccetera. Le volevo chiedere anche se ha delle altre voglie, nel senso, non so, un desiderio pazzesco, un sogno inesplorato, sempre nell'ambito del suo lavoro. Vabbè, ho raccontato storie in varie maniere, ho scritto anche romanzi, ultimamente ho fatto un radiodramma l'anno scorso con Matteo Caccia. Mi piacerebbe moltissimo fare teatro, questo ogni tanto lo dico, ma perfino i miei amici che fanno teatro, siccome mi vogliono bene, non mi aiutano in questo sogno. Dicono, siccome ti vogliamo bene, no, non ti aiuto, ti vorresti male. Una volta anche uno scrittore famoso, diciamo così, che ha fatto teatro, molto famoso, mi ha detto, no, guardate, quando voglio bene, anche se potrei aiutarti, perché quindi, almeno i personaggi dei fumetti fanno quello che gli dici tu. Ho detto no, se vorresti troppo. Ho detto vabbè. Voglia, non so, di scrivere per non so, per la Marvel o qualcosa di... Ma qualche soddisfazione, ho scritto anche due storie per la Marvel, una di Spider-Man e una di Capitan America e Devil, una decina d'anni fa. I personaggi che volevo scrivere li ho già esaurito, diciamo, mi sarebbe piaciuto scrivere una storia di Superman, ma è una cosa impossibile, quindi perché non c'è possibilità. Un fumetto che viene fatto negli Stati Uniti, l'autore madrelingua inglese, è già stato una specie di miracolo di combinazione perfetta che sono riuscito a scrivere due storie marvelliane, però no, credo che non ci sia occasione. Vabbè, però non si può fare tutto. Ma quanto ci mette lei a rientrare, per dire, da Topolino a Spider-Man? Cioè, su cosa ha lavorato? Quanto ci ha messo per scrivere la storia di Spider-Man o di Capitan America? I tempi sono quelli, cioè non è che alla fine uno una pagina di fumetto che sia vista da fuori, se uno si mette a leggere proprio parola per parola, una pagina di sceneggiatura di Tex, una di Diabolik, una di Topolino, sono fatte alla stessa maniera. Cioè si usa un linguaggio molto tecnico, che fra l'altro ho mostrato prendendo un po' in giro appunto nel libro di Sio, con Sio, però lì alla fine il linguaggio, il numero di pagine che scrivono in un giorno è lo stesso. Più che altro è a volte difficile, che quella cosa per cui il giorno prima stai scrivendo Topolino e il giorno dopo stai scrivendo Diabolik. Cioè, bisogna rientrare velocemente con la testa in quelle in logiche narrative che sono proprio nella narrazione, nell'approccio ai personaggi, in ritmi che sono un po' diversi. Questo che semmai è il problema che a volte si ha, che uno però negli anni mi sono così abituato, poi ho sempre saputo che la mia è una figura atipica e beh, credo anche abbastanza unica nel panorama del fumetto italiano, perché effettivamente questo non è un merito, è semplicemente un fatto. È stato molto molto raro che qualche altro autore abbia scritto generi di fumetto così diversi fra di loro. È tutto per questa puntata, ovviamente potete riascoltare questa e anche le altre puntate andando sulla pagina di Radio 24 e cercando La Prima Volta, oppure sulla pagina Facebook Radio 24 La Prima Volta. Buona domenica e buon inizio di settimana da Cristina Carpinelli. Thank you.